Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12 e 13 minuti, un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi parliamo di affitti e di un aspetto particolare, ovvero del boom degli sfratti, un problema molto grosso che ha visto un acuirsi con la crisi economica, ma che affonda le sue radici da lontano e poi lo vedremo nel corso della trasmissione. Tra l'altro oggi, purtroppo, ahi noi dobbiamo dire, abbiamo anche un aggancio di cronaca, perché lo avete sentito nel GR poco fa: un uomo in Germania, in una piccola cittadina, Karlsruhe, ha preso in ostaggio alcune persone, proprio perché è un inquilino moroso e quindi è stato sfrattato. E un gesto di follia, una reazione a quanto gli sta accadendo, e ha preso appunto questi ostaggi, e la situazione ovviamente è in evoluzione, ve lo racconteremo nel corso anche dei prossimi GR. Spesso può capitare che chi viene sfrattato venga preso dalla paura, venga colto proprio nella sua dimensione proprio più di dignità, di perdere la casa. È un momento davvero drammatico per chi si trova in queste situazioni. Noi oggi ne affrontiamo questo tema come sempre con i nostri ospiti ed esperti che ci aiuteranno a capire meglio. Saluto Massimo Pasquini della Segreteria Romana dell'Unione Inquilini, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. E saluto l'avvocato Giorgio Spaziani Testa, che è il segretario generale di Confedilizia. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Saluto l'assessore alla casa, al welfare, patrimonio, politiche del lavoro e cooperazione internazionale del Comune di Firenze, la dottoressa Stefania Saccardi. Benvenuta. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Ci racconterà che cosa sta facendo Firenze proprio per questa problematica. Prima però di addentrarci nel nostro tema, velocemente andiamo sui mercati, perché la situazione si sta evolvendo e purtroppo in negativo. Parigi cede uno 0,6%, Francoforte lo 0,64%, Londra resta stabile, meno 0,23%, Piazza Affari però cede poco meno di un punto percentuale, in questo momento è la peggiore. Diciamo che la situazione per Milano si è andata appesantendo dopo la pubblicazione dei dati relativi ai conti pubblici del primo trimestre, un deficit PIL all'8%, l'anno scorso era al 7%, questo è il peggior dato dal 2009 a questa parte, e questo dato deriva dalla maggior spesa per interessi pagati sul debito pubblico e dalle minori entrate. Quindi, parallelamente all'appesantirsi dei listini a Milano, anche il differenziale Bund BTP ha subito una tensione, un rialzo, siamo a 426 punti base in questo momento. Tornando velocemente a Piazza Affari, lo ribadiamo, Fiat è il titolo migliore, più 3,49%, grazie alle vendite Chrysler negli Stati Uniti, Mediaset più 3,47%, Autogrill più 3%, Atlantia guadagna l'1,17%, Snam, Exor meno di mezzo punto percentuale. In fondo al listino invece troviamo Mediolanum, che cede 3 punti, Generali il 2,63%, così come Impregilo, Finmeccanica il 2,38% e Intesa San Paolo cede il 2,22%, in questo momento è il peggiore tra i titoli bancari. Sotto pressione anche euro su dollaro, 1,25,66 in questo istante. Chiudiamo qui questa nostra parentesi dedicata ai mercati. Invece ci mettiamo l'attenzione sul tema di oggi, appunto il boom degli sfratti. 800240024 per intervenire in diretta e raccontarci le vostre esperienze, 349-238-6666 per i vostri sms. Ora la nostra scheda. Arrivare a fine mese è sempre più difficile per un numero sempre maggiore di famiglie. E sono sempre di più quegli italiani che non riescono più a sostenere una spesa che si trova solitamente ai primi posti tra le priorità del bilancio domestico, sia per importanza che per consistenza: la quota mensile dell'affitto della casa. Circa 56.000 famiglie italiane nel 2011 hanno avuto un provvedimento di sfratto per morosità. Il dato è in linea con la situazione del 2010, ma se si considerano gli ultimi 5 anni, l'aumento è del 64%. La crisi economica segna profondamente, quindi, anche la realtà delle locazioni. Ed è così che degli oltre 63.000 provvedimenti di sfratto del 2011, l'87% è dovuto all'impossibilità di pagare dell'inquilino. A guidare la triste classifica c'è Roma. Nella capitale, secondo i dati del Ministero dell'Interno, l'anno scorso sono state emesse 4.678 nuove sentenze. Seguono Torino, 2.523 sfratti, Napoli, 1.557 in città e 1.255 nel resto della provincia, e Milano, 1.115 nel capoluogo, ma ben 3.244 nell'Interland e provincia. Il dato è in aumento, in ogni caso, su tutto il territorio nazionale. E le associazioni che si occupano dei diritti degli inquilini sono in allarme e denunciano una situazione che non potrà che peggiorare. L'Unione Inquilini prevede 250.000 nuovi sfratti nei prossimi 3 anni, di cui 225.000 per morosità incolpevole, ovvero per la reale impossibilità di pagare il canone per via di cause sopraggiunte. Un'emergenza che necessita di risposte e soluzioni che vengono richieste a gran voce, e di cui in alcune zone d'Italia si inizia a parlare. Sospensioni, fondi sociali per gli affitti, nuovi investimenti nell'edilizia popolare. Allora, possiamo dire che intanto un intervento coordinato e mirato per questo problema non c'è, che negli ultimi tempi, negli ultimi anni, possiamo ad esempio dire che tutta la problematica del sostegno agli affitti è stata tagliata dal governo Berlusconi dell'85% i fondi per questa problematica, la proroga sugli sfratti non comprende la morosità incolpevole, che come avete sentito nella nostra scheda è proprio l'impossibilità accertata di poter pagare il proprio affitto. E le realtà locali si muovono un po' ciascuna a modo proprio, come può, a seconda poi ovviamente delle risorse che si hanno a disposizione. Quindi ad esempio, se volete fare una ricerca a questo proposito, troverete che per esempio la regione Piemonte si muove in un certo modo con un fondo, il comune di Brescia anche si muove attraverso un fondo, a Terni per esempio sono stati messi a disposizione 12 alloggi popolari per chi si trova sfrattato per morosità. E poi c'è Firenze. Chiamo subito in causa l'assessore, la dottoressa Stefania Saccardi, per farci raccontare che cosa succede a Firenze, anche perché la dottoressa poi ha pochi minuti da dedicarci e quindi vorrei che proprio subito ci spiegasse che cosa fa Firenze. Ma mi pare che la situazione non sia molto diversa rispetto a quella che lei ha descritto prima e che la nota ha descritto prima in merito alle altre città. Anche noi abbiamo una media mensile degli sfratti in costante crescita. Ne avevamo 30 nel 2009, 42 nel 2010, 54 nel 2011 e adesso siamo ad una media mensile di sfratti di oltre 70. Di questi quasi il 50% sono sfratti per morosità, anche questo è un dato in crescita sul quale ovviamente pesa fortissima la crisi economica. È la prima voce vera che risente di tutto questo è appunto il pagamento del canone di locazione e quindi la trasformazione la trasformazione immediata di un problema di sfratto in un problema di sfratto per morosità. Noi in questo momento il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presso la Prefettura, a seguito di questi dati, a seguito della difficoltà di provare a dare una risposta alle tante morosità incolpevoli che ci sono, la Prefettura, in accordo con tutte le altre istituzioni e tutti i soggetti, ha sospeso l'esecuzione degli sfratti pochi giorni fa fino al 30 di settembre. È ovviamente un provvedimento tampone che non risolve e che purtroppo in alcuni casi colpisce anche alcuni proprietari che subiscono, certo, il loro malgrado, perché il dramma spesso è che ci troviamo di fronte a una guerra tra poveri, nel senso che alcuni proprietari hanno anche loro come unica fonte di sostentamento il reddito che proviene da un appartamento e nel momento in cui questo reddito viene meno ovviamente si trovano a loro volta in difficoltà. Ormai la divisione così schematica tra grandi proprietari e inquilini in condizioni invece di difficoltà, quindi la parte debole l'inquilino e la parte forte il proprietario, ormai è una distinzione manichea che non esiste purtroppo che esiste solo in piccola parte nella realtà. A volte ci sono anche piccoli proprietari che soffrono anche loro pesantemente dalla condizione, certo, di difficoltà degli inquilini. Sì, mi dica. No, volevo chiederle, assessore, visto che abbiamo ovviamente nel nostro piccolo cercato di raccontare, cercato di dire un po' come si muovono le realtà locali, che però, e lo dicevamo anche in una precedente telefonata io e Massimo Pasquini, si muovono un po' ciascuna per conto proprio. Quanto sentite la mancanza, come dire, di un coordinamento che sia invece nazionale, che come dire, ci sia un progetto unico e tutti i fondi vengano destinati a un progetto unico per quantomeno affrontare in maniera un po' più sostanziosa questo tipo di problema? Ma lo sentiamo moltissimo. La sensazione che io ho è che che il ministro al welfare immagini che il welfare sia fatto solo di riforma delle pensioni, e credo che sia la sensazione che molti amministratori locali hanno. Noi abbiamo un tema pesantissimo che è rappresentato appunto dal sociale e dalle politiche per la casa, che sembra che il governo ignori quasi completamente. Certo che oggi il ministro Fornero viene attaccata da ogni dove, dobbiamo dirlo. Ma io comunque, so, probabilmente è un problema mio, ma la sento parlare solo di riforma delle pensioni. Non ho sentito una parola su un fondo per la non autosufficienza azzerato da anni, non ho sentito una parola su un fondo nazionale per il contributo affitti che è passato, come diceva la sua scheda, da 205 milioni nel 2008 a 33 milioni nel 2011 e con una prospettiva di diminuzione del 70%. Sul fondo sociale, che è diminuito del 55%, cioè nel momento in cui la crisi economica picchia più forte, il taglio delle risorse al sociale ha ovviamente un riflesso doppio rispetto a quello che avrebbe in un momento, certo, in un momento economico diverso. A onor del vero, io non vedo un'attenzione su questi temi. Un ministero del welfare parla di pensioni, ma e dovrebbe anche avere la capacità di parlare di altro, di casa, di sociale, di sostegno. Allora, in difficoltà. Certo, assolutamente. Io però, prima di dare spazio all'ascoltatore Enrico da Milano, che ci ha chiamato all'800240024, vorrei far intervenire Massimo Pasquini, perché proprio al telefono un'oretta fa parlavamo del fatto che è vero che questo è un fenomeno che salta più evidente all'occhio adesso perché c'è la crisi economica, ma è un problema che affonda le sue radici nel passato, diciamo già da qualche anno è evidente questa crescita del numero degli sfratti e degli sfratti per morosità. Sì, bisogna dire che la questione sfratti per morosità ha iniziato a farsi vedere fin dal 98, dal 1998, quello è l'anno in cui le sentenze di sfratto per morosità sono state superiori alle sentenze di sfratto per fine locazione, non era mai avvenuto questo. Ed è stato seguente alle ulteriori iniziative di liberalizzazione dei canoni con i patti in deroga. Poi certo la 431, poi la crisi economica, l'impoverimento anche delle famiglie, la disoccupazione, certo, e tutti i dati che noi statistici noi conosciamo hanno portato a un incremento della situazione. Io vorrei segnalare solo una cosa però: il fondo contributo affitti, tanto per fare un esempio, non è stato soltanto tagliato dal governo Berlusconi dell'85%, ma vi annuncio che il governo Monti un anno fa lo ha letteralmente azzerato a partire dal 2012, per cui le 300.000 famiglie che avevano questo contributo affitto ed erano quelle famiglie un po' borderline, quelle che col contributo affitto non andavano in morosità, il rischio è evidente che su queste 300.000 famiglie una quota parte rilevante possa nei prossimi mesi e anni andare anche loro verso la morosità, quindi c'è un ulteriore aggravamento della situazione della morosità. Certo. Ma questo non avviene a caso. Ecco. No, mi sembrava che l'assessore Saccardi l'avesse fatto capire che comunque anche le prospettive erano state pesantemente decurtate, e quindi ovviamente anche a opera del governo attuale, che è il governo Monti. Enrico da Milano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Ci dica. Gli ascoltatori. Niente, io da circa 20 anni sono all'interno di un'abitazione, ho sempre pagato per 20 anni correttamente e puntualmente. Purtroppo negli ultimi tempi anch'io sono stato coinvolto in questa crisi oppure cambiamento epocale mondiale, e mio malgrado ho avuto delle difficoltà negli ultimi 5 mesi a corrispondere correttamente il mio affitto, sì, e le spese. Sì. Sono stato trascinato in tribunale, dove ho esposto al giudice che se avessi voluto non pagare l'avrei fatto molti anni prima, però purtroppo questa è la contingenza del momento. Allora, ovviamente io chiamerò l'avvocato Spaziani Testa a rispondere per quanto può ovviamente al signor Enrico da Milano, perché qui ovviamente entrano in causa i proprietari, però prima voglio salutare l'assessore Stefania Saccardi per essere stata con noi. Grazie assessore per averci spiegato un po' qual è la situazione di Firenze, la ringrazio e le auguro buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro. E allora, avvocato Spaziani Testa, l'ascoltatore che ci ha chiamato poco fa e ci ha detto ho pagato regolarmente per 20 anni, quindi immagino ci sarà anche un rapporto che va un po' più al di là della mera superficialità con il suo proprietario di casa, poi ho avuto dei problemi, mi ha trascinato in tribunale. Qui entriamo in un rapporto delicato che è appunto quello tra inquilino e proprietario, e voglio subito sgombrare il campo: non è che qui stiamo prendendo le parti degli uni e degli altri, perché il problema riguarda entrambe le parti e quando c'è il problema vengono danneggiati entrambi. Ma sì, qui c'è un problema generale di morosità che si è sviluppato negli ultimi anni. Correttamente diceva la scheda, non nell'ultimo anno, perché i dati appena diffusi sono da oggi sul sito del Ministero dell'Interno, appena diffusi dicono che addirittura l'ultimo anno c'è un lieve calo, ma non è questo il punto. Il certo. punto è che c'è una morosità diffusa da diversi anni. Qual è il problema? Il problema è quello di una locazione che andrebbe stimolata, salvaguardata e tutelata invece che colpita. C'era stato uno spiraglio, noi lo consideriamo uno spiraglio, ma non solo noi, era stata una misura che non avevano richiesto solo i proprietari, ma tutte le forze politiche e anche associazioni degli inquilini, quella di un'attenuazione del carico fiscale sull'immobile locato attraverso la cedolare secca, uno spiraglio che c'è stato nel corso del 2011 e che è stato quasi direi annullato dalla manovra di fine anno che ha colpito durissimamente non solo la casa in generale, ma in particolare con l'IMU gli immobili concessi in locazione. Sì. Perché parlo di fiscalità? Parlo di fiscalità perché la fiscalità è un elemento fondamentale della locazione. La locazione andrebbe salvaguardata, andrebbe consentito di allargare questo mercato per superare situazioni di criticità. È chiaro che poi molte situazioni dipendono anche dalla crisi più generale, ma se addirittura il carico fiscale sull'immobile dato in locazione aumenta, può accadere, e temo che accadrà, che le morosità aumentino addirittura, e che cioè gli sfratti per morosità, sì, intendo dire, perché i proprietari ce lo dicono, si stanno liberando degli immobili in molti casi, si stanno liberando degli immobili, quindi situazioni che venivano certo. Un tempo tollerate per molti e molti mesi, potrebbe accadere che non vengano più tollerate. E questo certo. È veramente, veramente grave. Con riferimento però, mi consenta, a Firenze, non è quella la soluzione ai problemi, non è quella di un provvedimento peraltro di dubbia legittimità, perché il prefetto non mi risulta abbia poteri di sospensione degli sfratti, e noi ci siamo immediatamente attivati su Firenze per capire cosa sia accaduto, perché ci sono prassi passate di sospensioni di questo tipo che sono state tutte dichiarate illegittime. Non è quella la soluzione. La soluzione è allentare la morsa della fiscalità, è quella anche di agevolare tutte le situazioni di aiuti che possano essere date da parte dei comuni, e qui do una piccola notizia, direi. Ieri il ministro Passera era in commissione in Parlamento per rispondere ad alcune domande in materia, insomma, di programmi del suo ministero, sì, e ha depositato un documento nel quale si dice che fra gli obiettivi c'è quello di un fondo mirato ad evitare l'ennesima proroga degli sfratti. L'ho letto letteralmente. Quindi l'intenzione del governo accogliamo con favore questo intendimento, è quella certo. di evitare nuove proroghe e invece intervenire in aiuto alle famiglie realmente bisognose. Allora, poi chiederò anche a Pasquini se è d'accordo con questa analisi dell'avvocato Spaziani Testa, però prima voglio dare spazio a Angelo dalla provincia di Latina. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, senta, io ho un problema, non più mia madre, non io. Abbiamo un inquilino da novembre che il giudice gli ha dato lo sfratto. Sì. Lui è andato in sentenza, il giudice dicendo che lui l'ha regolarmente, completamente e solo di estate, 3 mesi, dicendo che il giudice, che lui di questi 3 mesi dava, cioè seguiva tutto il denaro che doveva mia madre. Sono andato 3 mesi, un'altra udienza. Altri 3 mesi ancora, mia madre era pensionata, è tanta con lo signor Angelo, purtroppo la sentiamo malissimo e dobbiamo interrompere questa telefonata, ma se ho capito bene il senso di quello che lei ci voleva raccontare è che sì, ci sono anche delle situazioni in cui sicuramente c'è gente che proprio non può, non ce la fa e quindi va in morosità, ma c'è anche molta gente che, come dire, ci prova, insomma, fa un po' il furbo. Rodolfo da Vigo, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Niente, collegandomi un attimo a quello che diceva appunto l'avvocato Spaziano della fiscalità, appunto sì. sugli immobili, dal punto di vista dei proprietari, non dimentichiamoci che è una cosa molto grave il fatto che, ancorché tu abbia l'inquilino che non paghi, hai tutte le tue, voglio dire, spese giustificative, devi comunque corrispondere le tasse sui canoni che non hai incassato. E oltre, voglio dire, tutte le spese che devi affrontare di avvocato, ufficiale giudiziario, sfratto, fabbri e danni e quant'altro tu possa avere nell'immobile. Quindi anche questa è una cosa assolutamente grave, perché non dimentichiamoci che i tempi minimi sono di 12-18 mesi per ottenere uno sfratto. Quindi su quei 12-18 mesi tu devi comunque pagare le tasse ancorché non abbia incassato nulla. Nulla. Quindi e certo, questa... e questo, ovviamente questo è un grossissimo problema per i proprietari ed è anche questo il tenore dei messaggi che ci state scrivendo al 349-238-6666, cioè di tutti i problemi che poi si trova ad affrontare il proprietario. Torno a Massimo Pasquini, perché l'avvocato Spaziani Testa ha dato una sua ovviamente analisi e lettura della situazione, anche diciamo parlando di quelle che potrebbero essere le possibilità sul tavolo. Secondo lei? Beh, noi siamo piuttosto distanti da questa impostazione, cioè l'avvocato Spaziani parla di peso centrale della fiscalità, potrebbe anche essere vero. La realtà dei fatti però è un'altra, e che indipendentemente dal tipo di fiscalità applicata, vi ricordo che con la 431 c'era un canale agevolato che ha tuttora un'importante agevolazione fiscale, mai usata, in maniera molto minoritaria da parte dei proprietari e in qualche caso anche da parte degli inquilini, quindi non voglio difendere tutto. Ma la questione è un'altra, la questione è che noi ci troviamo di fronte a un segmento di famiglie rimaste in locazione che non può accedere in alcun modo ai livelli di canoni che sono stati raggiunti e che sono le attese da parte dei proprietari di affitti da percepire. Questo è il nodo principale. Come si fa a incontrare un mercato che non si incontra, un mercato che fino ad oggi ha soltanto risposto all'offerta e non alla domanda? Il problema sono il livello dei canoni. Poi certo ci possono essere politiche fiscali che sostengono sia l'inquilino che il proprietario da questo punto di vista, poi certo ci possono essere iniziative che possono andare incontro a una stabilizzazione degli affitti. Il problema vero però è che da una parte c'è questo livello dei canoni che non è più sostenibile, 55.000 famiglie ogni anno che vanno in morosità, che vuol dire che per i proprietari che non percepiscono quell'affitto è un problema rilevante, ma questo se non si lega a politiche abitative degne di tale nome. Noi sì. non abbiamo più politica edilizia pubblica in Italia, nel resto d'Europa vanno su altri versanti, in Francia intendono costruire 150.000 alloggi sociali ogni anno, noi stiamo vendendo e siamo a 1.000 case popolari l'anno, abbiamo 650.000 famiglie nelle graduatorie comunali, cioè famiglie certificate dai comuni che hanno diritto ad una casa popolare. Allora, se non, qui manca evidentemente un soggetto che è il governo. Sì. E il governo come sta rispondendo, come anticipava prima l'avvocato Spaziani, con fondi o con un piano 100 città che è relativo a pochissime migliaia di appartamenti a un costo rilevantissimo, non corrisponde ai bisogni. Noi abbiamo bisogno, sì certo, anche di fondi che siano ammortizzatori sociali rispetto a un momento di crisi economica, che vanno, in cui bisogna sostenere gli inquilini che non riescono a pagare gli affitti e quindi a dare redditività a questi appartamenti, ma abbiamo bisogno di un piano nazionale, strutturato, di edilizia pubblica, che in qualche modo risponda alle necessità. Se noi continuiamo invece a pensare che il problema sia un po' di fisco, un po' di fondi, in realtà non capiamo qual è il problema. Ripeto, abbiamo un Moloch, abbiamo gli sfrattati da una parte, che sono la punta di un iceberg del problema, dall'altra abbiamo 650.000 famiglie in graduatoria. Come rispondiamo a questo? Certo. È un problema rilevante. Assolutamente rilevante. Nel frattempo io vi devo aggiornare su quello che sta accadendo in Germania, lo abbiamo detto in apertura di trasmissione, e purtroppo si lega al tema che stiamo affrontando noi oggi in Germania, in questa piccola cittadina di Karlsruhe. Un uomo aveva preso in ostaggio delle persone perché sfrattato dal suo appartamento in quanto moroso. Ecco, secondo la televisione tedesca NTV ci sarebbero 4 morti, quindi l'uomo avrebbe sparato, i morti sarebbero 4. La TV riferisce che sono fino a 4 morti, quindi ovviamente il bilancio non è definitivo, la situazione ancora si sta evolvendo e vi terremo aggiornati su quanto sta accadendo. Questa ovviamente è la conseguenza più tragica che può succedere in questi casi. Giuseppina dalla provincia di Modena, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a lei. Ci dica. Senta, io vorrei sapere se è possibile, se esistono delle precauzioni e quali sono, che un proprietario di casa può prendere per non incappare, come è successo a me, in inquilino moroso che ha creato chiaramente anni di cause certo. E poi danni anche economici. Allora, io chiedo all'avvocato Spaziani Testa, ovviamente qui prescindiamo un po' da persone che si trovano in un momento di contingenza ad avere delle difficoltà perché magari hanno perso il lavoro, sono state licenziate in tronco, ovviamente in questo caso non è possibile né prendere delle precauzioni né sarebbe, voglio dire, sensibile prevedere una situazione di questo genere, però forse ci sono delle precauzioni che un proprietario di casa può prendere. Allora, avvocato Spaziani Testa, che cosa possiamo dire a questa signora che ci ha chiamato dalla provincia di Modena, se non ricordo male? Ma cosa possiamo dire? Per quanto riguarda la ricerca dell'inquilino perfetto, questa non è possibile, non esiste una formula magica per trovare un inquilino perfetto. Esistono però dei sistemi per tentare di scandagliare la situazione degli inquilini, dei potenziali inquilini, per verificare la solvibilità degli stessi. Ci sono sistemi anche di garanzie fideiussorie. La Confedilizia da anni una convenzione con una importante banca a questo proposito, che consentono intanto di farsi appunto accertare da parte dell'istituto bancario questa solvibilità e poi di avere insomma un lungo periodo di garanzia di corresponsione del canone. Detto questo, però, poi ovviamente le difficoltà possono sorgere, e se posso approfittare del fatto di avere la parola per tornare sulle questioni generali, io vorrei dire che è chiaro che non si tratta solo di fiscalità, come non si tratta però solo di edilizia economica e popolare. È necessario che ci sia un equilibrio nel mercato immobiliare italiano, e questo equilibrio è venuto a mancare. L'edilizia economica e popolare è importantissima in Italia, peraltro per ammissione degli stessi istituti autonomi case popolari è colpita da una morosità, in quel caso ingiustificabile dati i livelli dei canoni e da un livello di occupazioni senza titolo che che fa spavento e che è anch'esso ingiustificabile, ma l'edilizia economica e popolare non può essere il tutto. C'era un equilibrio che era stato architettato attraverso quella citata legge del 98, la 431, che aveva un senso: libero mercato per una fetta, edilizia economica e popolare dall'altro lato, e in mezzo canoni agevolati, quindi più bassi rispetto a quelli del mercato, sì, in cambio per il proprietario di agevolazioni fiscali. Questo sistema è stato abbattuto dalla scure dell'IMU sugli immobili locati, che in quei casi, di quei contratti, porta a livelli, ad aumenti di tassazione che addirittura arrivano all'800-900%, proprio perché il patto, diciamo, fra pubblico e privato si è rotto, nel senso che io, proprietario, ho abbassato il canone per venire incontro alle esigenze dell'inquilino e per avere in cambio un'agevolazione, sì, fiscale, e quell'agevolazione non, fiscale non ce l'ho più. Ci deve essere un equilibrio fra mercato privato e edilizia pubblica, in modo da consentire a tutte le fasce sociali di ottenere un alloggio. Giorgio da Pisa, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Ci dica. Entro subito nell'argomento, sì, brevemente. Visto che siamo in tema di spending review, non ho ancora sentito da parte dei comuni accennare alla necessità di rivedere quanti e quali dei loro inquilini delle case popolari siano ancora in possesso dei requisiti per i quali appunto costoro beneficiarono della concessione di quegli alloggi. Credo che sarebbe una cosa molto opportuna, perché per esperienza so che non viene quasi mai fatto questo controllo, per cui avviene che ci sono negli alloggi popolari di parecchie città persone che vivono in appartamenti che forse dovrebbero essere dati ad altri, proprio perché non hanno più questi requisiti che consentivano il beneficio dell'assegnazione, allora, dell'alloggio popolare. Allora, dato che anche di questo argomento abbiamo parlato prima della trasmissione con Massimo Pasquini, vorrei da lui un commento su queste parole, perché anche in questo caso sicuramente c'è qualcuno che fa il furbo. Guardi, questa è una cosa non vera, sinceramente. Mm. Allora, gli ACP, gli ATA, le ALE, siamo in 55 modi in Italia, per, sì, cui sì, è difficile, anche diciamo, questo, sì, no, del tipo di cose che abbiamo. Fanno censimenti periodici dei redditi e, diciamo, gli ACP, ATA, le ALE hanno abbastanza, alcuni un po' meno nel sud magari, la situazione in mano. Il problema è un altro, il problema è che siccome le leggi regionali hanno stabilito che gli ACP, ALE, ATER devono puntare al pareggio di bilancio, sì, l'esigenza di avere una quota parte di inquilini che hanno redditi più alti e che pagano quindi canoni più alti è un'esigenza che risponde a questo. Io credo invece che chi è in decadenza dovrebbe liberare quegli appartamenti, magari andare in appartamenti di social housing, in questo avrebbe un senso il social housing, perché parliamo di persone che sono nelle case che hanno magari più di 70.000 euro l'anno di reddito e quindi potrebbero in qualche modo, in una situazione diciamo di canone moderato, riuscire a trovare una collocazione. E liberare, a Roma significherebbe liberare 5.000 appartamenti. Cioè, allora credo, il problema è che non possiamo sempre stare a pensare che quello che sta nella casa popolare, che comunque paga un po' di più, non paga 70 euro chi ha reddito 70.000 euro nelle case popolari, questo vuole sfatare una leggenda metropolitana, pagano alcune centinaia di euro, che potrebbero andare verso il social housing e liberare. Il problema però è che se continuiamo a pensare che la funzione fondamentale è il pareggio di bilancio e negli interventi pubblici, che anche quelli della casa, il pareggio di bilancio è, cioè non è possibile, cioè si può razionalizzare, si devono fare la lotta agli sprechi, si fa tutto quello possibile, però sì, pensare che l'intervento sociale abbia un pareggio di bilancio è quantomeno risibile. E ripeto, in tutto questo discorso però manca il governo. Io ho parlato prima di politiche abitative, che non si tratta solo di case popolari, certo, ovviamente, sì, sì, ma certo, si tratta per esempio di utilizzo delle esistenze, si tratta di creare le condizioni per cui ci possono essere programmi sperimentali di autorecupero, autocostruzione, insomma che ci sia un'idea in Italia di una politica abitativa che corrisponde e risponda alle esigenze reali e non quelle irreali. Se abbiamo oggi un invenduto enorme da parte dei costruttori, ma ci sarà un problema, vogliamo porci la questione che non è un problema di costruire, ma invece di capire cosa serve in Italia e non le 300.000 appartamenti che abbiamo costruito. Mi sembra che anche l'avvocato Spaziani Testa rilevasse come in tutto questo discorso ci sia la mancanza dell'invitato principale, che è appunto il governo, quindi una politica centrale a tutto campo. Noi avevamo qualche anno fa il tavolo nazionale sulle politiche abitative per semestre di infrastrutture, in cui ci siamo confrontati anche con l'avvocato Spaziani, sì, e pur nelle difficoltà però abbiamo trovato dei momenti di grande sintesi, di grandi punti di avanzamento, di proposte programmatiche serie, e non ci si è andati più, perché poi c'è una logica che è abbastanza strana, tutta legata al mercato e alla speculazione. Ecco, un'ultima battuta la vorrei proprio dall'avvocato, perché a parte che siamo in chiusura, ma perché appunto mi piaceva sentire anche la sua opinione su questo, perché poi immagino che dato che siete due facce dello stesso problema, almeno qualche punto di contatto possiate trovarlo. Sì, ma certamente questo è il punto, la necessità che ci siano delle politiche tali da consentire un equilibrio nel mercato immobiliare, ripeto, complessivamente inteso, quindi quello della compravendita, sulla quale è necessario esercitare minore pressione proprio agevolando la locazione, e quello per l'appunto della locazione. Speriamo che intanto questo primo tassello che citavo prima del fondo del quale ha parlato il ministro Passera sia immediatamente attivato, speriamo però che ci siano poi anche altri interventi per tornare un po' indietro però rispetto a quello che si è appena fatto. Prima veniva citata una norma particolarmente vessatoria sulla tassazione dei canoni non riscossi, sì. I segnali dal punto di vista fiscale recenti sono invece molto negativi, non solo l'IMU ma anche recentissimamente nell'ambito addirittura del disegno di legge sul lavoro, che insomma si occupava di tutt'altro, anche una ulteriore norma di maggiore tassazione per le locazioni non soggette a cedolare secca. Quindi politiche abitative in questo senso, nel senso di realizzare un equilibrio nel mercato della locazione e della compravendita, proprio perché, come diceva prima anche l'assessore, sì, quella figura di cui si parlava, del proprietario parte forte, dell'inquilino sì, parte debole, certo, è veramente destinata, non so se sia mai stata vera, ma comunque non è certamente vera adesso, perché ci sono situazioni veramente di grandissime difficoltà in piccoli proprietari che non riescono, certo, a fronteggiare le proprie spese attraverso. Diciamo che non è vera quando si parla poi di sfratti per morosità, perché riguarda diciamo realtà che non ricomprendono i grandi proprietari, che a loro volta avranno degli inquilini che non si troveranno in questi problemi. Io ringrazio per essere stati con noi Massimo Pasquini della Segreteria Romana dell'Unione Inquilini e l'avvocato Giorgio Spaziani Testa, il segretario generale di Confedilizia, per averci aiutato nell'argomento di oggi. Ringrazio in redazione Marco Lombardo, in regia Roberto Scaltritti. A tutti voi l'augurio di una buona giornata.